Radio Tube, l'intervista di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di Radio Tube, come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Studi di Radio 24, Milano. Si definisce una pianista classica, ma non la classica pianista. Dopo la collaborazione con Dargen D'Amico, arriva col suo album Big Break e il nuovo singolo Sliding Doors. Isabella Turso. L'esigenza mia, molto personale, di sperimentare. Quindi io nasco e sono, diciamo, ho proprio fatto il classico percorso accademico in conservatorio che mi ha dato delle basi solide grazie alle quali ora posso permettermi di sperimentare con una certa libertà e senza perdere troppo l'equilibrio, ecco, diciamo così. Quindi classica sì, non classica perché ho avuto modo di confrontarmi con repertori e con artisti apparentemente molto differenti. Poi in realtà il bello è vedere che ci sono tanti punti in comune. Mi piace questo tuo voler contaminare, ma allo stesso tempo mettere l'accento sul contaminare, riciclare, usare anche gli scarti. È anche filosoficamente è una bella combinazione di idee. Bravissima, hai detto bene. Difatti è un po' una mia fissazione, diciamo così. Una fissazione quella di in qualche modo unire, avvicinare. Mi piace più il termine avvicinare, accostare, che non inquinare, diciamo contaminare. Ecco, contaminare, inquinare, ecco che mi collego al discorso ambientalista, ecosostenibile del riciclo dello scarto, no? Quindi avvicinare cose diverse che però arricchiscono l'uno e l'altro. Il fatto di riciclare sì, perché siamo è un'esigenza direi globale e dobbiamo metterci nell'ordine di idee che questo è il futuro e in tutto quello che facciamo quotidianamente dobbiamo, anche proprio nel lavoro, nel quotidiano, anche sul posto di lavoro, intendo dire, io nello specifico cerco di fare questo e di in qualche modo di rendermi utile, ecco, in questo senso. Lo Sliding Doors è proprio legatissimo all'album che si intitola Big Break ed è uscito venerdì scorso su tutte le piattaforme digitali, in streaming, e poi a breve uscirà il fisico, perché non si può abbandonare il fisico, la fisicità in tutti i sensi possibili e immaginabili. Il Big Break è proprio la grande pausa, la grande sospensione che guarda caso abbiamo vissuto ultimamente, però vuol dire anche grande occasione. È proprio quello che mi ha convinto di far uscire questo album ora. Non volevo farlo, volevo posticipare, però in effetti il Big Break vuol dire anche grande occasione ed è quella che abbiamo sotto gli occhi tutti quanti. È una grande occasione effettivamente per quello che ci è successo e dobbiamo fare delle scelte anche qui. Quindi il Big Break sono una serie di brani che fanno parte delle mie ultime esperienze, diciamo. C'è dentro anche un po' di Dargen, nel senso che ci sono dei pezzi che ho scritto durante il tour. C'è il primo brano che scrissi, la prima volta che ci siamo conosciuti, poi ci siamo scambiati un po' di idee e tra queste c'è il brano che poi ho voluto inserire nel nuovo album. Ed è tutto per questa puntata di RadioTube, l'intervista con Isabella Turso. I prossimi appuntamenti con RadioTube sono il sabato con Social Village e Social Network in diretta dalle 16:00.